cancellare quella. E le cosiddette poesie brevi, quelle di 4-5 versi, assomigliano un po', fanno riflettere, assomigliano un po' ai certe composizioni poetiche molto brevi, anche generalmente di 4 versi, della poesia Zen, no? I Koan o Koang, a seconda edizione giapponese o vietnamita, no? Che hanno la prima lettura hanno un senso, poi leggendo più in maniera più approfondita, leggendo più volte, riescono ad avere anche un senso più profondo. A me è piaciuta quella che hanno letto, in cui si pigliano in giro le magnifiche sorti e progressive, sì, perché effettivamente, come si è capito anche io al cosiddetto progresso, così come ce lo raccontano, non ci credo. Per me l'uomo è millenni che è sempre uguale, purtroppo neanche il cristianesimo è riuscito a cambiarlo in meglio, figuriamoci le ideologie moderne. E le magnifiche sorti e progressive è un verso tratto dalla Ginestra di Leopardi, ma non è originale di Leopardi, è di suo cugino Terenzio Mammiani. Quella sì è una delle figure più opache del Risorgimento, è proprio una persona abbastanza ottusa. E scrisse appunto in uno scritto, parlava delle magnifiche sorti e progressive, e suo cugino Giacomo Leopardi, che era un pessimista storico al pari di me e di Eugen, lo prese acutamente in giro nella Ginestra. E in effetti riteniamo che il vero progresso non derivi dalle ideologie che, anzi, molto spesso, proprio, soprattutto quelle che più propugnavano il progresso, hanno fatto andare indietro l'umanità, ma il vero progresso viene da un progresso interiore che ognuno di noi può compiere, e certamente bisogna mettere la società in condizioni di far compiere ad ognuno questo progresso interiore, poi progredendo noi riusciremo magari anche a far progredire gli altri e la società. Adesso li ringrazio. Vi chiedo scusa se vi ho annoiato, ma come ripeto, come ho detto prima, non sono un critico letterario, per amicizia lui mi ha chiamato e io ho detto obbedisco. Frase garibaldina in tono con l'amico. Ecco, ringrazio, adesso mi perdonerete e mi perdonerà dovunque si trovi, ringrazio il collego Gargazzoni, diceva un rivale politico di cui non facciamo il nome, appunto non c'è più. Non c'è più. Comunque, ecco, questo è un po' uno scherzo. Ringrazio, inutile dirlo, naturalmente i nostri carissimi amici, senza cui il testo non vivrebbe. E così, solo una conclusione brevissima per dire appunto, siccome spesso si chiede, dice, ma è autobiografico, non è autobiografico e via seguendo. Il problema è che, per esempio, se guardiamo al primo che è stato proposto anche dai nostri amici, ecco, c'è uno spunto che un Chamier più Baldelli, uno spunto sì, naturalmente è autobiografico, tra l'altro, l'incipit è di un'esperienza riferita, non diretta. Poi si parte, per così dire, per la tangente e tutto quello che intreccia, diciamo, la questione del mostro di Firenze. Tutti voi più o meno avrete letto o sentito, anche perché c'è tutta una polemica tra giornalistico, letteraria e altro, su ritrovamenti, coinvolgimenti a Perugia, eccetera, no? Ecco, un giornalista, fra l'altro, è stato in carcere e non si capisce bene perché, ma diciamo, ecco, che Achille ed io siamo anche convinti garantisti, no? E c'è stata una stagione politica che qualche volta tuttora prosegue, dove la magistratura, lo dico senza timore alcuno, si arroga dei diritti che non sono suoi, non dovrebbero essere suoi. Dicevo, tutto il resto appunto è altro, non è altro naturalmente quando si parla di Alberto Sordi, ecco, difatti quello per esempio è un racconto in prima persona ed è qualcosa di realmente vissuto, e, ecco, lì c'è dentro anche un po' chi vi parla, insomma, un po', perché poi naturalmente si parla di un personaggio che è assolutamente sopra ogni sovradimensionato, no? Ricordo i critici o cinematografici o televisivi che si burlavano delle grandi coppie, cioè gli immortali Cocchi e Renato, che non erano abbastanza politicamente impegnati, secondo taluni, che adesso giustamente si ricredono, o Franco e Ciccio, assolutamente immortali anche loro, e anche lì, no, soprattutto l'intelligenza, non per dire, ma insomma di certa sinistra, soprattutto della sinistra estrema, che invece bombardava queste cose, e tuttora, diciamo, non si sono ricomposte certe fratture, insomma, no? nella comprensione. Ora, se diciamo uno spettacolo televisivo come quello recente, che non sono riuscito a seguire se non a frammenti purtroppo di Cocchi e Renato, appunto, viene proposto, nessuno si permette più di tanto di e tutti anzi, per esempio nel recupero appunto di certe canzoni, di certi sketch o nel caso di Franco e Ciccio dei film, si danno tutti da fare, ora però, non in vita loro. No? Quei critici a cui tu ti riferivi, come li ha liquidati Paolo Villaggio con una battuta sulla corazzata Potiocchi? Sì, io... pazzesca, sì. No, io ho sempre vissuto all'insegna del politicamente scorretto e spero di continuare, anche lui, spero di continuare a avere così, lui da sinistra, io da destra, ma sempre all'insegna del politicamente scorretto. E mi ricordo che facevo scandalizzare questi critici saccenti, così parlando proprio del loro idolo Eisenstein. No, diceva, a me non piace tanto la corazzata Potemkin, preferisco Ivan il Terribile, che non avevano mai visto. Invece è un bellissimo film in cui si vede proprio in Ivan il Terribile, fatto da Eisenstein, dichiaratamente comunista, eccetera, si vede tutta la concentrata in quel film lì, che è un film molto bello, ve lo consiglio, però non lo danno mai, tutta la grandezza della storia russa, tutta la grandezza della tradizione russa. E veramente dico, ritengo che quel film fatto dall'ebreo comunista Eisenstein sia il film più di destra, come per i valori che trasmette, in assoluto, che esista. Questi si scandalizzavano, naturalmente, a me piace, io apposta li scandalizzavo, perché quella gente lì non la stimo per niente. Io volevo ancora ringraziare l'amico Achille, che non ha tediato nessuno, anzi, e ha detto delle cose che io condivido, sottoscrivo in pieno, e dico che anzi ci volevano. A proposito di Franco e Ciccio, ancora una battuta, o Ciccio e Franco se volete, ancora una battuta, il grande professor Moggio, di cui noi abbiamo un culto vero e proprio, una volta aveva fatto a mio papà il famoso gesto. Ecco, adesso posso farlo, Achille. E mio papà, che era una persona un po' seriosa, si era un pochino, invece, insomma, come sempre, Francesco Moggio aveva capito tutto. Moggio, a lezione, non in una conversazione privata, sosteneva che la comicità di Plauto e quella di Totò erano la stessa. Sì, era la stessa. Sì, e allora lui scandalizzava, invece che oggi che ti cercherai da adesso non posso farlo per motivi oggettivi, proprio di artrosi, ma se no ve lo farei. Il Moggio, anche a età diciamo avanzata, riusciva a farlo, no? Si nascondeva sotto la cattedra, noi ci ricordiamo il Mostellum di Plauto, come si chiama in italiano, il fantasma, insomma, sì, ecco, ma, e diceva dov'è, no? E riferito al fantasma, adesso appunto non ve lo faccio perché altrimenti si sbrega tutto, ecco, per dirla un po' in dialetto. E però ecco, questo per dire della grandezza invece di certi personaggi. E M di cui prima, anche se poi la poesia è sempre così, è sempre un pochino sull'asse paradigmatico e non su quello sintagmatico, quindi sono lemmi abbastanza in libertà, poi neanche tanto se andiamo a guardare, no? Leggete l'ultimo libretto, adesso mi sfugge il titolo, di Zanzotto, del grande poeta veneto, che è probabilmente l'ultimo esempio diciamo del post-ermetismo italiano, no? Credo concordiamo abbastanza in questo. Citando un po' impropriamente il compianto Bigongiari, diciamo i frammenti, o adesso lo dico io un po' chimicamente, il precipitato dell'ermetismo, precipitato in senso alto, però, no? Dell'ermetismo. Ecco, diciamo che con Achille Ragazzoni condividiamo anche, oltre a quello che si è fatto e si continua a fare, lui in loco, io non più, quindi accidentalmente, ma insomma, un pochino, anche altrove, insomma, si riesce a gettare qualche semino, anche perché fra l'altro l'ignoranza sul problema altoatesino e su tirolese è ignoranza in senso letterale, ignoranza sulla cosa, non ignoranza nel senso di non volersi accettare, volersi erudire, acculturare sul problema o su altro, è proprio totale. Basta andare appunto a Verona, non a Firenze, o basta andare a Salzburg, insomma, per citare una città che mi è cara. Ecco, non c'è nessuna contezza della cosa, perché insomma non è una cosa che viene più di tanto approfondita, anche su Le Monde Diplomatique, che si occupa di tante e troppe cose, a mio parere, non c'è mai un qualcosa su questo, non c'è mai stato fino forse perché non siamo a centro del mondo, come ecco. Qualcuno crede. E forse perché non sarebbe troppo politically correct, anche, no? Quello riprendendo Achille prima. Ecco, io chiudevo però ancora omaggiando il mio e il vostro amico relatore, e preludendo agli amici musicisti, tra l'altro di cui condividiamo le sorti, e le abbiamo un po' condivise anche per quel bellissimo spettacolo che mi auguro verrà riproposto. Io ho collaborato solo marginalmente con apporti, diciamo, non teatrali, ma che si chiama 1799, La Mattanza, se qualcuno l'ha visto. Ecco, io se veramente, ecco, per citare un po' anche l'opera che avete fatto, se ci fu, a proposito di storia e del foscoliano o italiani, vi esorto alle storie, purtroppo ormai è totalmente de modè, no? Il parlare di storia sembra di parlare di patate andate male, anzi peggio. Ecco, diciamo che oggi, purtroppo vengo, e scuserete, da un'esperienza un po' dura per il viaggio e per alcune cose occorsemi durante lo stesso, sentivo qui alle 5:30 sul giornale radio, non so, Rai 1, ma credo siano tutti ormai abbastanza, che Bernard Kouchner, che mi spiace dirlo perché io sono un socialista, era del Partito Socialista Francese, oggi nel governo Sarkozy, non Sarkozy, badate, ha detto il mondo deve prepararsi alla guerra con l'Iran, no? Contro l'Iran, perché ormai è tutto deciso. Io ecco, vedete, l'autobiografia, o anche appunto il fantasma che sicuramente aleggia, no? Qui un po', o un po' tanto, non so, non sta a me dirlo, ma è legato anche a questo, no? Ecco, noi sappiamo che è pericoloso parlare dell'11 settembre, perché ci sono verità scomode e muy escondidas, no? Molto nascoste, perché sono pericolose, sono politicamente scorrette e non vogliamo. Io adesso ieri, no, l'altro ieri ho infierito un po' con quell'amico, no, non è ancora età, ma insomma, non ricordo, Castelfidardo forse, presso Ancona, che addirittura insomma, ventilava la questione di un possibile complotto ebraico. Questo no, insomma, no? Perché allora torniamo all'epoca del demo Pluto ebraico. No, ecco, appunto. Soltanto nascoste, basta vedersi i film di Michael Appunto, Moore, Fahrenheit 9/11. Benissimo, sono verità palesi, non nascoste. Sono però nascoste per il political correct, no? Questo è che vogliono nascoste. Ecco, e lo spunto, quindi, anche per scrivere, viene da questo, e viene anche, e chiudo totalmente. Questa amica croata dice, ma tu scrivi anche racconti, poesie. Dico, ma sai, dico, avendo a che fare con persone anche che soffrono, perché io sono pedagogista clinico, quindi ogni tanto, e nei gruppi ogni tanto anche emergono delle cose che naturalmente devono rimanere, ci mancherebbe, nel segreto. E la deontologia professionale qualcosa deve pur voler dire, ce lo insegna l'amico in un altro campo, ma non è poi lontanissimo. Diciamo, le sofferenze o personali o anche appunto collettive, perché qui ci sono state ormai centinaia di migliaia di morti, no? E io non sono mai riuscito a vederlo, ma mi dicevano anche di un'opera filmica che spero abbia anche un pendant letterario, un'origine letteraria, almeno per intercettare il testo letterario da cui deriva, in cui una sorta di zombie o di non so che cosa, di soldati americani, di American soldiers, no? Morti nell'ultima guerra del Golfo, guerra irachena, insomma, tornerebbero per cantarle al presidente, soprattutto al bene amato da chi l'ha votato, solo vicepresidente dei Cheney. Ecco, qui veramente invece il godimento. Thank you.